prossimo tuo, rubrica in collaborazione con la Caritas. Porta il titolo di una domanda il report 2016 sulla grave marginalità elaborato dalle Caritas del Nord-Est. E chi è il mio prossimo? Era la domanda che quel tale fece a Gesù, appunto per sapere chi era il suo prossimo. Gesù, come risposta, raccontò la famosa parabola detta del buon samaritano. Servire i poveri vuol dire servire Cristo, perché i poveri sono la carne di Cristo, e se serviamo i poveri insieme vuol dire che noi cristiani ci ritroviamo uniti nel toccare le piaghe di Cristo. Così Papa Francesco, qualche giorno fa, in un'intervista al quotidiano Avvenire, ha detto questa frase, che ben si adatta per spiegare il senso e l'importanza di lavorare in rete per le Caritas delle diocesi del Triveneto, la regione conciliare del nord-est Italia. L'obiettivo è di rispondere in modo unito alla sfida che la grave marginalità, vale a dire i fratelli più poveri, oggi pone alla Chiesa. Il rapporto "E chi è il mio prossimo?", presentato in questi giorni, rappresenta uno degli scopi fondanti della Caritas, la lettura dei bisogni per risposte di senso. Il report è uno strumento che fornisce un quadro generale, senza la pretesa di essere esaustivo, relativamente al lavoro dei centri di ascolto delle Caritas del Nord-Est, attraverso una griglia di lettura dei fenomeni che caratterizzano la grave marginalità, così ha spiegato Don Marino Callegari, delegato delle Caritas Nord-Est. È una prima riflessione sulle motivazioni che hanno spinto queste realtà a occuparsi di persone condizionate da processi di impoverimento tali da spingerli verso lo status di grave marginalità, che si caratterizza come un fenomeno dalle diverse dimensioni. 15 diocesi, 15 Caritas diocesane, appunto nel nostro territorio del nord-est, un sistema, quello della rete di accoglienza, che è cresciuto nel tempo all'interno dei singoli territori in risposta a fenomeni che sono e si sono differenziati da diocesi a diocesi. È importante quindi cogliere il processo progressivo di costruzione degli interventi a favore delle persone povere e in condizione di grave marginalità. Un sistema composito che riconosce un mandato condiviso: rispondere attraverso l'accoglienza ai problemi complessi delle persone che vivono in condizione di povertà, marginalità o esclusione sociale. Questo report, ha spiegato Don Giovanni Sandonà, già direttore dell'Osservatorio Povertà, nasce dalla volontà delle Caritas del Nord-Est di migliorare la qualità del proprio servizio anche attraverso l'OSCAR, appunto Osservatorio Caritas. L'obiettivo può essere quello di provare a dare un profilo preciso al come le Caritas diocesane, vicariali e parrocchiali vivono e svolgono il servizio di accoglienza rispetto alle persone in stato di povertà estrema. Ne è venuto fuori un profilo bello del volontariato di relazione, ossia di come la relazione di accoglienza e accompagnamento genera percorsi di inclusione sociale. Questo emerge sia dal numero degli operatori e volontari che si dedicano alla relazione di aiuto, sia dalle proposte che ne derivano, andando oltre l'accoglienza in strutture solamente per l'emergenza verso altre modalità di accompagnamento, come gli appartamenti protetti o in semiautonomia o in autonomia completa. Altrettanto, dice ancora Don Sandonà, vale per l'impegno sempre maggiore di proposte di formazione al lavoro, sia poi con la modalità obbligata della situazione di persone emarginate. Rimane dolente il problema della residenza, senza la quale molti dei senza dimora non possono accedere a nessuna forma di tutela sociosanitaria e previdenziale. È proprio la residenza anagrafica che a molti manca, e questo appunto non consente l'accesso ai servizi di base. Così come c'è il problema della presa in carico da parte della rete dei servizi sociali territoriali, un dato che è stato evidenziato dal 36% delle persone accolte solamente alla Caritas. Il report dunque è uno strumento utile per un confronto nell'ambito pastorale con le Caritas parrocchiali o vicariali presenti nelle comunità diocesane, e anche motivo e uno strumento di confronto in ambito civile e con le amministrazioni locali, perché lo sappiamo bene, l'abbiamo detto più volte, le Caritas sono sempre e devono essere in stretto collegamento, e viceversa, appunto, in primis con i servizi sociali dei comuni. Nelle diverse diocesi del nord-est ci sono 130 strutture che sono state censite dalla ricerca. Il numero complessivo delle strutture è 206, dedicate all'accoglienza di persone in grave e gravissima marginalità sociale. I posti letto sono un migliaio, di cui 346 come dormitorio emergenza, 314 case accoglienza utenza eterogenea, case famiglia per minori e madri sono 13, 139 sono gli alloggi semiprotetti, 134 gli alloggi in autonomia, 34 le esperienze di Housing First, che è un'altra dimensione di cui abbiamo già parlato qui in questo spazio. Le persone accolte in queste 130 strutture esaminate sul totale di 206, persone accolte dicevamo circa 3.896 esattamente l'anno scorso, 3.865 quindi dato analogo nel 2014. Per la maggioranza sono uomini di origine straniera, anche se considerando i cosiddetti dati di stock l'incidenza delle persone immigrate diminuisce dal 73% al 50%, perché c'è un turnover maggiore, un cambiamento proprio di persone. Sono prevalentemente maschi, celibi e si dividono in due gruppi quasi omogenei, con gli italiani che rappresentano il 50,3% del campione, gli stranieri comunitari il 5,6%, gli stranieri extra Unione Europea 44% circa. Gli immigrati generalmente sono più giovani, quindi sotto i 39 anni, gli italiani generalmente sono più anziani, in maggioranza sopra i 50 anni. I problemi casa, reddito, lavoro per le persone italiane concorrono anche le assenze di relazioni familiari, la salute, la dipendenza, l'autonomia psicofisica, la devianza, l'istruzione e la socialità. Per le persone straniere anche qui i maxi macro problemi, reddito, lavoro e casa, ma è significativo anche il problema della scolarità, dell'istruzione. I dati rilevano che gli italiani accolti nelle residenze Caritas sono comunque il gruppo più problematico. Questi dati, insomma, un primo panorama, è una rete che non ci dà in realtà delle novità rispetto a quanto abbiamo raccontato in questi anni, pur se la situazione effettivamente si è evoluta. Rapporto grave marginalità e chi è il mio prossimo, pubblicato e diffuso dalla delegazione Caritas del Nord-Est. Avete ascoltato Prossimo Tuo, rubrica in collaborazione con la Caritas.